Non lea. Attenzione, canale 10. Ciucu. Il 2009, ragazzi, era un po' che non lo accendevo. ho detto, mi ma sei sicuro che stai andando bene con l'apparecchio? Schiacci e poi si molla da solo. Cosa? Se a volte schiacci e si molla da solo. Quando? Ho capito, e sei sparito. Ma lo stando? Sì, va bene per un secondo, secondo e mezzo, poi sparisci. Come controllatelo un pochettino? Guardate lo smitter, e te la accoglie subito. Cos'alita, cos'alita, sta che attacco le BB più 4. E sono vabbè che non lo uso. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, questo è il MB più 4. Attaccato a 4 con S 4000. Quindi non va bene, attorno è questo qua. Adesso stai andando meglio. Cap. Giù. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Usa il signo, prova. Microfono, Sanella. Ciu. Chi è? Antonello. Dimmi tutto. Poi mi ascolti dalla barra mobile, cambio. Segnale 7. 7? 6 a 7. Da cosa? Da... Sono vicino ai carceri. E non ci fai vicino ai carceri? E dall'avvocato sto andando, Antonè. Ah, dall'avvocato stai andando. Gatta, glielo farò fare. A spillare i soldi stai andando. Gaba gaba. Meglio così, sono contento. Ti bacio, tu arrivando dalla macchina, Antonè. Beh, si sente. Dovete arrivare più forte dal carcere. Ce l'ho di fronte, siamo in linea d'aria, dovete arrivare al minimo 2.20 qua. Sì, vabbè, non sono proprio... sono in mezzo ai palazzi qua, capito? Sì, sarà in qualche buco lì dentro, ma comunque io ti ascolto. Idia, e in un buchetto sono qua. Sì, già vai bene, già ti sento, voglia. Ma che c'è... se attacco in lineare non è che arrivo più forte. Se attacco in lineare, ma magari arriverai 7, cosa ne so. Adesso guarda i 7. 7, sei quasi. Aspetta, La radio già è buona, però non ti preoccupare. Guarda adesso 1, 2, 3, 4. Signale 7, radio 5. Sono attaccato adesso. E si sente che sei attaccato, già va bene. E il segnale dovrebbe essere più forte. Eia. A me come mi ascolti bene, sì. State allo 9, sì, qua. Però io sono dentro la coperta qua, capito, Antonè? Forse per quello. Ho capito. Io ti ascolto, comunque, se sono 9 già va bene. Aspetta che mi stanno chiamando. Della Midland in AM solo, di quelli a 40 canali piccolini, non so se li conosci. Ho capito, sei? Sto usando un baracchino di quelli piccoli Midland. Stai usando di quei baracchini grandi? Di quello piccolo, un Midland, che cazzo di modello è? Midland CBAFM, CBAM. Ho capito, voglio che si sento comunque. Meglio di niente, già è. Sì, vabbè, ho messo questa in macchina perché è piccolo, capito? Ehi, dillo tu, la testa è da palazzo. Ok. Sì, andava, c'ho l'altro pure, c'ho il 48, ma non è messo, è troppo grande. Stai usando la 48, io vabbè. Ricordate le funzioni, era buio, se mi ha funzionato. A parte si fa da Santiago 3. Santiago 3 sono. Qua sei 3, tu figurati, se io sono 7. Sì, vabbè, sono staccato adesso. Eia, va bene. Dai, s'attacco. Eia. Così, sono attaccato, va, 1, 2, 3. Sei alle 7 adesso, perfetto. Sto usando un B150 ZG. Già è buono, già è buono. Già è un berliniale quello. Io visto che già funziona bene, Antone, dai. E ho voglia che funziona bene. Metti molto maglianda. Si vede che già funziona. Il padre faccia il suo mestiere. Tu vuoi se può prendere quel posto. L'ambulanza sta salendo qua. Non c'è libero. Stavi prendendo il coso, il 140, come mai? Perché mi stavo volevo pigliare il 80, ma invece mi è arrivata una bordata di coso di tassa mondetta e quindi non posso fare nulla per il momento, capito? E quindi aspetto il prossimo mese, quello che è, già ne ho tempo a comprarmi il 80. Cosa ti ne fai, Antonio? Mi hanno dato 40. Ah, ma no, che non mi tengo, questo me lo tengo e tanto già ce ne sono di 80-300 euro, già si trovano. Me lo metto i soldi da parte, capito? Posso di bere la birra, mi metto 3 euro da parte ogni giorno. A me non mi piglio di 80. Beh sì. Tanto mi danno, non sto bevendo, quindi. Oio via. Bevendo acqua minerale San Pellegrino, quella acqua farma. Come mai non stai più bevendo? Perché ho mangiato la pizza e la pizzetta e sono collassato bevendo la birra. Poi sono andato a controllarmi e passato per tanto per dire, sono svenuto. Ho controllato, c'è la glicemia 108. Allucinante. Io faccio un bel getto che ce l'ha, non so neanche accorta la glicemia, boh, non so, è periodo, cosa ne so. Bel getto, a forza di stare senza fare niente, mattina e sera, capito, sta lì, non a uscire di casa, dove vai? A fate la passeggiata a piedi, poi incontri un amico, vai a batti, bevi due birre e stai raccogliendo calorie. Se lo so, a tole, vabbè. E quindi adesso la birra la sto bevendo una volta ogni tanto. Di solito capita o di sabato di domenica me ne bevo una quando vado da Ricco, fammi un giro e bevo una birra, poi salgo a casa, pranzo, verdura, né più pane né più pizza, quindi bisogna cambiare il sistema, ho cambiato. Beh, se così sì, ero piano, gli andava. La mattina facevo la colazione con la pasta io lì, adesso manco quella sto mangiando, vai giù da qua, me lo mangiano. Le brioche dello schifo fanno male perché fanno schifo, sono una cagata con quelle brioche alla marmellata che lì, quando te la mangi ti senti male, ti senti, quindi ci ho mandato tutta a cagare con la roba lì. Se mi mangio un bel panino con formaggio, lo faccio di quelli piccoli e sono a posto, faccio colazione. Beh, così, ma cosa vuoi ti dica io? Io non sto più bevendo niente. Quando sei senza far nulla è tutto per così me. Sai quanta gente vedevo prima andare al bar, mattina e sera, un giro uno, un giro l'altro, un giro uno, un giro l'altro, e ci uscivi in cazzo con 6-7 bottiglie di birra la sera. Adesso un bel gente non ci sta più andando, a parte che deve anche aumentare, quindi ormai il bar sono quasi tutti vuoti. Io hai visto le 7-7:30 stanno già chiudendo, prima chiudevano alle 8:30, a volte anche alle 9. C'è che prima del Covid chiudeva alle 10:30, anche a mezzanotte, sempre pieni, adesso è un mortorio. Diciamo che hanno perso me, Barantone, c'è un po' di crisi in giro, la gente lì se ne fanno il circo a berci la birra, capito? È un patrimonio mio, la bottiglia, la birra è un patrimonio mio. L'unica cosa è come andare al supermercato, te la compri, te la porti a casa e te la bevi quando vuoi. Non di quelle lattine, ma la birra inchinosa, la Dreher, tanto per dire. Birra buona, non birra di quelle da 50 centesimi, che c'è più zucchero che altro. E mai fatti lo sceva a nuda. Te lo ricordi quanto ci avevamo di birra, cazzo. Non avevo mai avuto niente io. Già te lo ricordi anche tu, c'erano 7, 8, 10. Mettevamo tranquilli da fuori, mangiavamo tanto panini, cosa da dire, non c'è mai successo niente. Adesso da quando ci abbiamo messo in corpo quella merda del Covid, tutti i parametri sono tutti quanti messi, tutti a contrario. E ha rovinato quel di gente quel vaccino. Infatti ha rovinato bene di gente, sì. Capito? Beh, niente ha rovinato. C'è chi ha le mestruazioni per i cazzi suoi, chi ha problemi alla prostata, chi ha problemi al pisello. C'è quello che era una drizza, che ha un casino. Ci ha rovinato tutto, ci ha rovinato. Capito? Casino, sono un casino, Ui. Sapete quando ne fama la Maddalena? Ah? Quando ne fama la Maddalena? Ah, senza verde, mumu. A poco mangiamo grilli, mangiamo, capito? Anche quelli. Oh, che schifo, cazzo. Anche quelli tutti chiusi, quei locali. Ah, sono chiuso la discoteca che c'è qui in via Carlo Felice. Sequestrata a Vicenza. Per non so quanti mesi. Come mai, Antone? Oramai, beh, niente andate di male. Sa se il vecchio, se mai ci sia il coprifuoco dalle 5 e poi. Per carità, andiamo, un bel casino, Ah, so un bel casino. Più sta andando, più ci stiamo rovinando. Tra poco andiamo a farci codare. E ui, se non si migliora la cosa, Sassari sta decadendo, è di brutto. È già morta Sassari, cosa decadendo? Guarda Sassari vecchio, tutto affittato a negri, solo perché paga lo Stato, 35 euro a persona, capito? Tutto affittato a quelli, e poi quando, cosa ne frega il padrone di casa, quando si azzuffano, cosa ne affutti, mica... A loro non succede niente, lo incassano e basta. Beh, in definitiva è così. Sassari vecchio, diciamo che è morto, non c'è più niente, capito? Non c'è più nulla Sassari vecchio. Tutto morto, ui. Compa, anche del sindaco, non ha fatto un cazzo da quando è entrato, quindi. Ma come mai se ne deve andare? È ora. Speriamo che di qualcuno non mi si renda, che gli distrugga tutta quella cagata che ha fatto. Solo quello, capito? Tutta questa merda che delle piste ciclabili che si è inventato, poi i soldi a posto di usarli per come si deve, cazzo, no, a fare cagare. E allora, che si mangi 30.000 euro, si è mangiato. Sì, se non ce l'ha mangiato uno di più di 30.000. Beh, l'altro a me la poteva fare una cosa come si deve, invece nulla, no. Meno male sono andati tutti al ghiero Castelsardo, a lui gli ha detto prenditi in cuore e passa buone feste, e ha fatto una figura di merda, ha speso 20.000 euro per che cosa? Per i figuranti, che non c'era neanche uno che ballava, peggio per lui. Beh, dopo quel casino che ha fatto, meglio l'abbiamo fatto fuori, dai. Ma se è stato a Napoli avrebbero già messo fuoco alla cosa, la macchina, sta tranquilla. Per carità, guarda, lascia stare. Quello si vede che il medico mi c'ha il cervello proprio baccato, c'ha che. Meno male ha detto non si ricandida. Se si ricandida la busca, che gli ha minacciato. E se ne va a fanculo, lui macchina che c'è in testa. E si faccia ricoverare lì dove lavorava all'ospedale. Ui ui, ti magnacci, insomma, magna di più. Lo politico romatesi, chi può mangiare di più prende e mangia, capito? Non era futtinuta. E tutto è magnasso, infatti, pensano solo la sera a mangiare e avere lo stipendio. Intanto se l'hanno aumentato di 900 euro, poi adesso lui se ne va con una bella pensione da medico e anche da sindaco. Quindi lui già sta benissimo, capito? Sì, vabbè, ma non è una cosa giusta che so che fai, dai. Oh, attore, si è mangiato tutto, e non va bene, c'è il vecchio, cosa c'è? Non c'è niente, c'è il vecchio, tu mondezza, per carità. Tutto mondezza, sì. Già ce l'ha portati lui tutti questi enigmi che ce l'ho portati io. Fu stato che lui aveva trascorso all'asinale, mettete se li volete. C'è il posto lì, ce l'aveva messo lì all'asinale, anche 10.000 persone. Già c'è un po' di pecore, un po' di capre, mucche, e aveva arrangiatevi. A me non avrebbero spacciato, questo è poco ma sicuro. Dico che avrebbero spacciato solo me, e l'America e basta. Magnaccione, ma te, sui, magari dai. Sassari vecchio, sono passato l'altro giorno a fare un giro, tutto abbandonato, vetrine rotte, serrande, tutte messe male, tutte sporche. Io di là a me, sono passato anch'io l'altra volta, per sbaglio, Sassari vecchio, ma con cani via, non c'era nessuno. Prima era sempre pieno di gente, quando abitavo io mi sono andato, la piazzetta, sempre pieno di gente di Sassari, i circoli pieni. Adesso tutto quanto c'erano i negri in mano. Ci hanno aperto i circoli, sono aperto i negozi di alimentari, questi negri, e quindi non ci puoi neanche entrare a comprare nulla. E quindi tutti se ne stanno andando, stanno chiudendo e se ne sono andati. Di notte, quando passi, devi andarci con un coltello in giro, non sia che te ne freghi il portafoglio. Vabbè, Davide, c'è poca la cosa, cosa ridda, la pistola in giro, devi andare, la pistola in tasca, allucinante. Sono stato per il Sassarese e ci aveva messo tutti questi negri lì all'asinato, te lo sto dicendo, nemmeno sarebbero stati bene. Mi sarebbe passata la voglia, stare tranquillo di spacciare le cose, avrei tutti tutti da... Le avevo messe lì nel carcere che c'è la serata, già ci stanno già 10.000 persone. La sera andavano, gli avevano dato un po' di pecore, qua è Pasqua. E allora, un casino sta diventando. Prova la Sassari, come ti dicono, ui. Un casino è diventato, no? Non è che sta diventando. Più un casino è diventato adesso, Sassari. Ci può manco passare, insomma, per carità. Ui. Vabbè, ti chiamo dopo che sto facendo una saldatura. Già fa. Vai, attore, già sono qua, dai, sto aspettando che scenda. D'accordo, fra poco. Ciao. Ciao. Qualcuno qua? Hola. Hola. Chi è? Avanti. Ehi, Gianni, sono Natali, come sta arrivando? Bene. E ho messo l'altra antenna, è arrivata. Ah, quell'antenna come quella di San Video. Ehi, aspetta. Hola. Natali, un attimino che la sto tarando, dai. Sì, dai. Father, away from the lì. Yeah. L'innesco ce l'avevo perché c'è il parlascolta ed ero troppo vicino all'apparecchio. Come sta andando? La portante si stanno mettendo. Tratteggiata. Sì, vabbè, non fa niente. Ma l'interessante è che vada bene il segnale. Eida sta arrivando, non c'è problema. Ora attenzione, binario 10, cambio. C'è una portantina. Quando ti arriva? È più bassa di te, tu mi arrivi più forte. Parla che guarda quanto mi arrivi tu. K. 910, radio 5 qua. Vediamo se sta toccando, doveva entrare Carlo. Doveva entrare Carlo? Sì, sì. Vai, tiri, che bravo. Ti sto ponendo in abortante, già. Tratteggiata, arriva quanto a te. Arrivare qui. Io quando ti arrivo il segnale? 9:10, ti ho detto, radio 5. Perché quando vuoi arrivare, 9:40 vuoi arrivare, eh? Anche a te l'hanno messa adesso. Io non lo so perché cosa cazzo, che gusto ci prendono a mettere la portante, boh. Ingerire il liquido? Perché non lasciano la gente in pace, vorrei sapere. Molto vicino. Ve l'appoggio. Ciao Marco. Sera. Ciao Marco. Buonasera a tutti. Sto pranzando e basta, vi ascolto. Vi ascolto anche la portante. Oggi condizioni disastrose. Perché male? Male, proprio malessere, dormito non male, peggio, anzi non ho dormito. È tutto, e quindi mi ero trascinato prima dal medico per mamma e poi ho comprato le medicine, adesso sto mangiando qualcosa e ascolto. Ehi Marco, questa qua è la nuova antenna, come va? Ah, ma sembra mobile. E allora? Allora, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 più 25. Ma dove sei? Piazzale? Ehi, stavo parlando, ma c'ho lo strumento che mi si deve essere imballato. Ma comunque non è stazionario perché me ne accorgo dall'apparato. Ehi, se vuoi già c'è lo strumento buono. Già ero molto interessato a fare con quell'antenna lì anche delle prove comparative, perché quella è praticamente della serie ML145, sempre la lunghezza è quella, 1,50, 1,60, la fa la Sirio, poi cambia qualche rifinitura, ma è la stessa antenna, la fa la Midland, la fa la President e la fa anche questa Telecom roba di baracchino, comunque con nome LS145, però sostanzialmente è lo stesso progetto. Solo una cosa già, cautela, perché se tu guardi la bobina, il filo da bobina è fatta di un rame sottile, simile a quella della Presidente, e quella della Presidente ha fatto un brutto scherzo a un utente, che loro dicevano che teneva 600 watt di picco, lui ne ha messo 100 soli in AM con lineare, 100 continui, vabbè, in AM, no? E gli ha sciolto non la bobina, ma il supporto della bobina, gli ha fuso e quindi si è tutto squagliato, capito? Quindi cautela magari con i watt. Ma io non le devo mettere il watt, non mi interessa mettere il watt. Uso l'apparecchio, già va bene. Sì, già, sì, 9 più 25, guarda che è un Bemmi, 9,25 da Piazza dei Segni, che non è vicino a Piazza dei Segni. K, va bene, io mangio, è bianco per me, vai Natali. Sì, K, buon pranzo, dai. Mi diceva, no, non venire, papà, che tanto quando... Io ho risolto quell'affare del TVI stamattina. E cosa hai fatto, Natali? Racconta, sono curioso. E praticamente... Ho messo un partitore di quelli che fanno uscire la corrente dall'alimentatore per alimentare l'amplificatore. e poi un'uscita per lui, e quindi se la sta vedendo dalla mia antenna. Quindi Natali le ha spiegato, come vedi, dice, se l'antenna è a posto, disturbi non ne prende. Infatti, non lo disturbo per nulla. Ma lui, quindi lui l'ha capito che non eri tu a disturbare, ma era la sua antenna messa male, cappa. Va bene, a dopo, ciao. Ciao Marco, è logico che l'ha capito. Colpi non ne piglia più adesso. È poco in cura adesso da togliere l'antenna, non esci più. È poco che attacca. Ma che casino, gratuita, abortante, mi gira in dire balle. Qua passate tutti, già ne passa, Natalino non ne parliamo. Ehi, lo so, ma da fastidio questo tiki tiki tiki tiki. Attento Natalino, mi ascolti, cambio. Già ti ascolto Franco, basso, ma già ti ascolto. Come basso? In macchina anche Franco, capito? Tra poco gli chiederemo Marco, buonasera. Ciao Gianni. Ciao Fra, sempre di Valenteggio, sei andato, cazzo questa volta. Un casino è già, uiui, lascia stare, là. Vabbè, dai, sto migliorando adesso, prima non ne avevo niente. No, sono in barra umile, sono qua, in via Spruni, dai, dall'avvocato, cambio. Cavara, ma mi ascolti, sto uscendo con l'antennino, con lo nuovo. Vabbè, io sono in zona poco aperta, Santiago Rome, Radio 5 qua. Cappa, va bene, va bene. Io sono qua là, niente, volevo solo fare a vedere come andava perché sono andato a prendere lo smetro del spallato, potrebbe essere il camminare in macchina, ha avuto problemi. Nel cofano. E allora? Pure a me è successo così qua. Comunque dovrebbe essere prestata questa antenna perché non è ancora la freccia del baracchino, andava così anche con l'altra. Stai arrivando bene, io sono in zona poco aperta qua in Viaggio Giaspruni, in mezzo ai palazzi, capito? Già va bene. Marco non lo so, e mi ascolta, c'è un portante che vi sta uccidendo tutti. Avete sentito? C'è un portante che vi sta ammazzando a tutti. Abbiamo capito, Claudio, sto provando la nuova antenna, come sta arrivando da te? Ma dove sei, in macchina? Cava! Ci arrivi bene, se non c'è la portante ci arrivi bene. Ciao a tutti. Ciao, ci sentiamo. Avanti Natalino. Ciao Claudio, buonasera. Ciao a tutti, ciao la portante, vi amato a tutti, ciao. E allora è vicino a te, perché da Natalino passavo, E dipende dove sei tu però. Io sono esattamente al quadrato, ma mi sto spostando, mi sposto. Ma mi arriva più forte di te, tu sei 9, la portata 9 più 10. Gaba, e vabbè. Non c'è problema. E hanno capito di essere stati vittime di un raggiro che secondo loro sarebbe provato per un amico di un conoscente che da 3 anni non risponde più a... Gianni, arrivo adesso. Eia, sì, arrivi, Natalì. Cappa. Io sono in movimento, dai, vado verso casa. Ehi, ok. Così si gioca col pistola portante. Cappa, almeno da casa mi posso difendere. E infatti. La colpa la bruba dalla macchina, sì. Gente che non deve essere presa in considerazione. Andiamo, rocchi, bubu. Ehi, cosa vuoi fare? C'è gente che si diverte così, e cosa vuoi fare? Niente, lasciamo fare, Natalia, putidini, dai. Oh, io gli avevo a far anni da chi, sto cacchio, d'avvocato, qua non mi sciumi un giorno. Ma devi salire ancora, Fra. Ah, c'è pieno di gente, qua. Quanta gente? Un casino, c'è un po' di gente, già. Hai tu e fa lo squillo, troppo. Vediamo. Frank, adesso sono... Sempre Ovesci qua da me. Tanto che anche quella di San Veglio non è che si spostava di molto. Io sto utilizzando una frustanella e mi ha fatto Claudio qua in macchina. E dice questa va bene l'antenna, crude. E che banda larga vuoi avere? Ci siamo sempre sul lì. Che ce frega? Io non sento più a Gianni adesso, Gianni non ti ascolto, Cosa, fra? A me non mi ascolti? A te sì, ma Gianni non ascolto. È sceso di segnale, sicuramente è entrato in zona negativa. Vabbè, io sono in via Giorgia Spruni qua in mezzo ai palazzi, sto utilizzando quell'antenna piccola, la frustanera. Cappa, io bene ci sto arrivando. 9:10 Radio 5 qua. Cappa, dai. Va benissimo, va bene. Ora, e adesso mi ascolti. E io da te quando sto arrivando, Natali. E l'ha presa in due e basta oggi. Se di gusti, attenzione, Franco, mi ascolti, cambio. Franco, non l'ascolti a Gianni. Gianni, fai un passaggio a vedere adesso se mi ascolti, vai. Io ti ascolto, dai. E adesso ti arrivando, dai, poco fa non ti stavo ascoltando. E non mi separati, fra. E ho capito, dai. Natalia, da te quando sto arrivando, in quelle coordinate. Ora, attenzione, binario di... Cosa vuole lì dal binario 10, gada gada? Adesso ho cambiato zona, Natalì. Cappa. Lo so, lega, tranquillo, mi vuole la portante a rompere i sacchi. Vabbè, futtiamo. Le portanti lasciano il tempo che trovano, già. Gava. Quindi ha risolto tutto, Natali, sono contento, ma il partitore non verrebbe messo a casa sua? No, a casa mia, io non devo essere schiavo di nessuno. Ah, e ha capito il signore che era da parte sua che disturbava. Si vede benissimo, hai muovato i brui, non li posso niente io, se non faccio niente alla mia, figurati alla sua. Come se avessi due televisori, tu metti il partitore per dividere il segnale, ma il segnale lo divide adesso. No, adesso io ho dovuto mettere un partitore particolare, perché c'ho l'amplificatore nell'antenna, e ho l'alimentatore qua a casa. L'amplificatore è sul palo dell'antenna, l'alimentatore è qua a casa, quindi ho dovuto prendere un partitore di quelli che fanno passare l'alimentazione per l'amplificatore, e più l'uscita per lui, capito? Quindi lui la vede tranquillamente la televisione. Ma finalmente sono contento che non c'è più problemi, dai. Sono contento, Natali, dai. Va bene così. E adesso la faccia è la grande, la portante. Penso che anch'io dovrei passare di brutto. Ma io non ne sento nemmeno, Natali, quando parli tu non sento nulla. Io già lo credo che non la senti. Quindi, si tocca una sintata. E infatti poi quando entri a casa tua non la sentirò manco io, che così almeno ridiamo. Ma dimmi tu, sono due giorni che accende e non c'è nessuno, il giorno che c'è gente rompono le scatole, boh. Ah, la passi alla grande, già, la passi alla grande, la portante, io ti ricevo bene, adesso passi meglio di poco fa. Ma perché ancora? Che io non la sento, forse sta pure nel QRM. Non la puoi sentire, quando parlo io non la sento, anche se lui la mette. No, la portante non la sento per niente io. Ora, anda bene, aspetta, che giro. Gava. Sì. Così imparano a rompere le scatole. Beh. pensate che ci sentiamo una salita, poi lo ritroviamo in affittività. Ehi, Aru Grido. Cavolo. Ho comprato 20 metri di cavo e il partitore, li ho comprati io, così almeno me ne ce l'ha mezzo. E non ci ho pensato prima a fare questo lavoro? Ma bisogna vedere se te lo fanno fare, hai capito? Mira, niente ignorante. Ha detto che io l'ho messa dopo l'antenna e che prima non lo disturbavo. Che studiare? Ma più ignorante di isso, no? Cosa c'entra che sono che l'ho messa dopo io l'antenna? C'entra che vai l'antenna brasica di 40 anni fa. L'antenna tu l'hai cambiata, non è che hai messo l'antenna, l'hai cambiata e quella parte, quella lì non andava bene qua, che c'avevo sempre 7 di QRM, se uno arrivava a 6 non lo sentivo. Ma vai da un po'. Adesso sento anche i più piccoli, sento la propagazione, sento tutto, è cambiata dal giorno alla notte la situazione. Vabbè, direi recuperare l'antenna nuova tu. Intende la propagazione? No, è Franco, ha detto che devo recuperare l'antenna nuova tu. E allora così è già. Aspettato a comprargli la tua un'antenna nuova, così ha risolto il problema lui, capito? Ma non è una pigliata antenna, no? L'ha pigliata un partitore, buh. Vabbè. Ma è meglio che non gli ho preso l'antenna, almeno quando voglio gliela attacco. Se mi rompe le balle. È stato lasciata all'interno della... Se gliela attacchi, poi c'è da casa tua e rompe le balle a te invece, capito? Oh, l'hai messo in casa tua. No, è fuori dalla finestra, il partitore ha attaccato al palo dell'antenna. Ah, ho capito. E lui taglia con le forbici da su e tu parli con muro dopo. Se lui taglia io la vedo lo stesso la televisione, perché lui può tagliare il suo di cavo, la mia non ci arriva. Che deve andare sul tetto. Se lui taglia lassù non posso parlare al baracchino, per lui manco televisione vede più. Ma lui ti taglia la discesa del cavo del baracchino. Perché allora taglio io. Dai cavi, le corde, capito? Dai, l'interessante è che abbia risolto Natalino. Dai, l'importante è che statene tranquillo, Natalino già va bene così a puttidini. Ma è facile. Non è male la candela avvelenarsi per queste cose qua. Se per dispetto me ne ha tolto il tirante dell'antenna e stava ondeggiando l'antenna, domenica mi ha preso un'incazzatura paurosa, perché questo fa anche dispetti. Purtroppo, vabbè, dai, l'importante è che tranquillo gli ha risolto il problema, dai, così sei pure tranquillo tu e non ti rompe più le scatole, capito? Cava. Già, ma dove sei, a casa tua sei arrivata? No, sono da un'altra parte, ma non dico dove, non per te, fra, Io ho capito, cava, vai Natalino. Eia, fra, cosa? La Samo Verde. Allora sai quella macchinetta del caffè cosa c'aveva? Li mortacci loro. E cosa c'aveva? Sai, caffè contatti. Più di un certo numero non ne fa, se non ricaricano i crediti loro non funziona, va in blocco. Fatta apposta. Stamattina sono andato e me l'hanno messa a posto in 5 minuti e poi sono andato a prendere il partitore e il cavo. Dove l'hai preso? La Fusaro. E allora, 28 euro mi ha fatto pagare, un bastidore mi rugava. Adesso c'è il patrimonio. 28 euro, ma ce l'aveva pure quello di Predanieta, il partitore, capito? Non sono Fusaro, quello aveva comprato lo stagno assieme, come di tempo fa, ti ricordi? Già lo so. Ho fatto prima, sono andato a usare, io Brescia di là, poi ha visto quell'inconveniente, ho dovuto usare il test per sapere cosa cazzo, cioè, perché mi si spegneva l'alimentatore, mi si spegneva, ed era in corso un cavo. Come lo stavo piazzando io è andato un filo della massa a toccare il positivo e quindi mi faceva quell'effetto lì, mi ha fatto diventare matto. Messo il cavo in corto, è chiaro che andava in protezione alimentatore, se si bruciava tutto. E vabbè, già ho risolto lo stesso, come l'ho trovato il guasto, l'ho aggiustato. E vabbè, già si risolvono quelle cose lì, non è che sia un problema, capito? Perché col testo mi segnava che era in corto, capito? Allora ho guardato ed era così. L'ho messo a posto, ho controllato torna col testo e come ho visto che era normale ce l'ho riavvitato. Perché c'ha il coso a vite quell'alimentatore. Iglia, ma tu questo avvocato mi ha rotto leggermente le balle a me. Oh signore. Cazzo, non esci più ogni volta con questo. Cazzo, non devo passare più noi a cosa. Parlare. E non lavora. Questa... Però siamo qui anche per chiedere delle cose. Sono guidente biliardo, io non lo so, cavallo un vostro di macchina antibiotico, che ne so. Non mi è passato ancora su questo di ora. No, io mal di gola non ne ho. Faccio. Praticamente ho preso un colpo d'aria alle corde vocali, capito? Fate i controlli, tutto a posto. Ma neanche io ne ho. Io ho questo catarro che mi sta rompendo le scatole, non devo più passare. Devi prendere l'antibiotico Flumicil, capito? Per sciogliere il catarro. E poi il Voltare come antinfiammatorio. Mi sembra che vado dall'asino della cruca e faccio prima a me. Il rimedio sovrano, te lo volevo suggerire. Mi aiuto, mi. Lui è per la pace sempre. Ma con lì come ci arrivo lì? Bene. Lo smitter è tutto scuncunagliato e quindi non segna bene, però arrivi qua tutto a posto, c'è il microfono che mi sta facendo impazzire. E buttarselo quel microfono e metti nell'altro. Per carità, c'è nuovo, solo provato, messo in cassetto, il PTT si scarica, ogni tanto non esce la modulazione, sta facendo lo stesso difetto che sta facendo Gianni. Buttalo via Marco, buttalo via quel microfono, stai uscendo a tratti ogni tanto. Te l'ho detto, oh. Cioè nemmeno il più scarso degli ZG ha fatto una cosa simile, e questo invece lo sto facendo, boh. Adesso mi sei uscito malissimo, io sto utilizzando microfono normale, non preamplificato, sono un casino con i microfoni Marcoli, danno problemi e non servono a nulla, gava gava. L'importante c'è Natali. Se ne freghi. Vediamo qua. Scusate, eccomi qua. Prova. Sto uscendo questo, sì. Solita rottura di scatola, lo vedi? Il mic normale è sempre migliore alla fine. Va bene, Marco. Quello è poco ma sicuro. Non ce n'è problema. Frano. Questo è fermo da un po'. Oh Frano, ti stavo riconoscendo appena sei entrato, che stavo trafficando qua con i cavi. Dalla voce non ti stavo riconoscendo. Sì, sono una settimana rauco io. Va bene, adesso già sta migliorando. Prima non riuscivo neanche a parlare, figurati un po', un colpo d'aria alle corde vocali ho preso. Sì, lo fa anche a me. Poi esco in moto, io non uso sciarpe e niente, uso il colletto alto e me lo faccio bastare, già sul parabrezza, però ogni tanto mi pizzica e mi prende subito alle corde vocali. Non il naso, non tosse, non catarro, ma è subito al parlato, capito? Aspetta che abbasso il monitor. C'è ancora doppio rum? Oh, non so se c'è ancora. Vabbè, a me mi ascolti in quella zona. Sì, sei tra 9.10 e 9.15. Ottimamente. E io? Vabbè, Natalino sarà minimo 9.25. Qua lo smitter è un po' cambiato. Bisognerebbe dargli un'occhiatina. Ci sono ancora, sì? Hola. Allora, questo è il 3009, Natali. 3009, display rosso. Il microfono è quello normale, marcato Lafayette, però. Ma volevo chiedere a Gian una cosa inerente al microfono che ha preso uguale al mio. Vabbè, quando rientra glielo chiedo. Sarà un andato a casa sua, rientrerà a casa sua sicuramente. Sì, volevo dire, offa, pure non è perfetto, lo senti, vabbè, meglio che niente. Sì, io sto funzionando bene. Marcolino. Sì, andata lì. Purtroppo quel microfono KPO, l'ultimo che avevo ordinato, niente, provato, usato due volte, messo nel cassetto, adesso tutto il PTT sta facendo scarico, oppure non esce di radio. Che robaccia, cacchio. A Gianni lo stesso. Ma nemmeno la ZG è arrivata tanto, la ZG aveva già il PTT migliore. E quindi il mic normale, ma sta uscendo perché io vedo pochi picchi, non vedo salire. Ah, ecco. Ma io vedo che stai uscendo bene. Insomma, questi amplificati alla fine danno più rogna che altro, mi nata lì. Ho strappo, ho scarico, ho il PTT come nelle BP5, premi e non pigia bene perché si consuma il PTT. Che palle, guarda. E infatti. E vabbè, là. Infatti il microfono normale è sempre l'unica soluzione migliore. Però il mistero del tuo mic del 3009 non riesco a capire, Natali. Perché tu hai detto che è pesante, dentro c'ha come una specie di placca in ferro. Il mio è leggerissimo, è solo plastica il mio, più la capsula. E tu hai detto che pesa un quintale. Un cromo pesa. C'ha roba, una rondella di metallo pesantissima che non sono riuscito a togliere. Per non guastare il microfono l'ho richiuso e l'ho buttato via da qualche parte qua. Ma non so perché l'abbiamo fatto, Natali. Non lo capisco. Cioè, farlo pesante più del dovuto, il mio non ce l'ha. Anzi, nessuno dei due 3009 ce l'ha questa rondella. Infatti il mic è leggero come può essere questo DMC 507 K. Il mio, a parte che è un barrasone di microfono, ed è pesantissimo. E qualche giorno che vieni qua te lo faccio vedere e così mi dici vero è. Sì, ma la forma è, la conosco, ce l'ho uguale, la forma è quella, però questo peso per far sembrare che è più teso, di materiale migliore, ma non si può prendere in mano, bisogna un trono. Infatti io ci ho attaccato le mie BP4 per quel motivo, perché a tenere quel microfono in mano è un'impresa. Sì, addirittura. E non è un blocchetto da cantiere, no? Qua, se ti ricura a cavo, vibratura giù a che cosa? C'è una portante. E chi se ne frega? Io aumento se c'è la portante. Io ho entrato a parlare, non è